9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci, Oscar Giannino in studio. Immediatamente andiamo al tema sul quale vi invito poi a chiamare l'800240024 i vostri sms, scusatemi, al 349-238-6666. Parliamo della Banca del Mezzogiorno, varata ieri con uno schema di disegno di legge in 5 articoli dal Consiglio dei Ministri, e oggi il pistolotto non lo fa Giannino per spiegare, lo facciamo fare direttamente all'autore, all'ideatore, anche al controverso ideatore, visto che alcuni ministri, come il ministro Fitto per il coordinamento con gli affari regionali e il ministro Prestigiacomo l'ambiente, ancora ieri in Consiglio dei Ministri hanno lasciato verbale delle obiezioni a questo schema e al disegno politico più complessivo. Ma facciamo dire direttamente a Giulio Tremonti, innanzitutto, perché una banca per il Mezzogiorno promossa dal pubblico? Il Mezzogiorno d'Italia è l'unica grande regione di Europa che non ha una banca propria, che non ha una banca autoctona. Diversamente dall'Atlantico agli Urali, dal Baltico al Mediterraneo, tutti i grandi paesi europei hanno banche proprie, regionali proprie. E questa è una evidente differenza che c'è tra il Mezzogiorno d'Italia e il resto d'Europa. Nel Mezzogiorno d'Italia non ci sono banche proprie. C'erano, sono venute meno. Non vogliamo fare la storia perché sono venute meno, ma la grande storia del Mezzogiorno è che ha avuto grandi banche. Nel Mezzogiorno ci sono banche, ma non sono banche del Mezzogiorno. Sono attive nel Mezzogiorno, ma non sono banche del Mezzogiorno. Il problema è che per anni tutti hanno criticato questa idea dicendo l'esperienza delle banche del Mezzogiorno, le ex BIN pubbliche, ricordate, è stata un'esperienza disastrosa, è costato, pensate, 1,5 punti di PIL il loro salvataggio tra Banco di Napoli, la Cassa di Risparmio della Calabria, eccetera. Allora la domanda è: questa banca è una banca fatta con capitale pubblico? La risposta è no. È un capitale poco più che pochi milioni di euro, e fin dall'inizio lo Stato, in questo comitato promotore, è in minoranza. Entro 5 anni se ne dovrà andare, e quindi a chi è rivolto l'appello? Chi deve entrare in questo comitato per fare davvero la banca? Ecco la risposta del Tremonti. Abbiamo in un qualche modo formulato la scelta di una discussione con il sistema delle banche di credito cooperativo, con le popolari se disponibili, con altri soggetti accomunati da una caratteristica: essere banche attive sul territorio per il piccolo medio credito. La nostra dimensione territoriale è il territorio, la nostra dimensione imprenditoriale è la piccola e media impresa, che normalmente richiede una dimensione di credito che è piccola e media. E la nostra visione, la nostra logica è quella dell'albergo che vuole ampliarsi, del comune che vuole fare un centro congressi, del esercente uno stabilimento balneare che vuole aprire una pizzeria, che vuole fare queste attività che sono fondamentali per il Sud. Ecco, in altre parole dice Tremonti: noi apriamo fin dall'inizio un appello e apriamo la possibilità ad aderire a questo comitato, quindi a fare la banca, le banche che già sono sul territorio, le imprese che già sono sul territorio nel Mezzogiorno. C'è un modello internazionale al quale guardare di questo modello di banca, quindi privata fin dall'inizio a maggioranza e poi privata definitivamente? Ecco la risposta di Tremonti. Se volete avere un'idea di cosa ci abbiamo in mente, è un po' come è stato in Francia il Crédit Agricole, che nasce dal territorio con casse, con banche di territorio molto focalizzate, lì c'è molta agricoltura, e poi si uniscono e si concentrano verso l'alto in una struttura unica, per cui chi è sul territorio fa le cose del territorio, chi è sopra assiste il territorio. Ora la domanda diventa: qual è lo strumento operativo di questa banca, in cui quindi lo Stato non mette i soldi, lo fa solo partire dopo l'appello, aver formato questo comitato promotore di banche e di imprese che già sono sul territorio, e quindi come funziona, in che cosa consiste il vantaggio di questa banca? Ecco, consiste nel fatto che lo Stato consente l'emissione di strumenti obbligazionari in condizioni agevolate, perché cambia il regime di tassazione. Queste obbligazioni non vengono tassate al 12,5% ma al 5%. E la spiegazione di come funziona questo strumento, ancora Tremonti per l'ultima volta, poi vi presento gli ospiti e iniziamo il dibattito. una persona, una famiglia va in banca, sceglie quella forma di impiego, il capitale così raccolto viene canalizzato nel Mezzogiorno. Gli interessi sul capitale così raccolto, il rendimento sul capitale così raccolto hanno un'aliquota del 5%. Quindi un'aliquota di grande favore. Questo significa che in tutta Italia chi decide di impiegare, naturalmente in banca, perché i soggetti emittenti sono soggetti bancari, quindi con tutte le garanzie della banca, decide di acquistare quegli strumenti, ha un favore fiscale di un qualche rilievo. Naturalmente l'entità del rilievo dipende da quanti sono gli interessi, adesso sono bassi, potranno salire. 5% è l'aliquota più di favore che c'è in questo ordinamento, che c'è in Italia e credo anche in molti altri paesi europei. Ecco, direi di, per il momento di fermarci qui, perché sennò poi facciamo parlare troppo Tremonti. Vi presento immediatamente alcuni osservatori che, diciamo, o perché operano nel territorio, nel settore, o perché da anni hanno animato il dibattito intorno alla necessità di ricollocare il Sud come priorità nazionale, hanno pieno titolo, secondo me, per spiegarci meglio qual è la loro opinione intorno a questo primo schema varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Abbiamo con noi collegati, di questo ringrazio, Carlo Trigilia, che insegna sociologia economica all'Università di Firenze e che è editorialista da Sole 24 Ore il mattino, così. Buongiorno professore. Buongiorno. Poi abbiamo con noi Franco Vildacci, che è direttore della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo, che come avete ascoltato è l'interlocutore diretto per ingresso in questa banca per il Mezzogiorno, che è un po' una banca di secondo livello, perché saranno invece le banche di credito cooperativo chiamate a esserne il braccio operativo sul territorio insieme alle Poste, e su questo faremo una riflessione. Buongiorno Vildacci. E abbiamo poi con noi il Gianmaria Grospietro, che insegna economia alla LUIS, direttore del Dipartimento Scienze Economiche Aziendali. Buongiorno Grospietro. Buongiorno Giannino, chiedo scusa se un po' prima delle 10 dovrò andare a fare lezione. Sì, figuri. Io comincerei proprio da lei. Dal punto di vista del rilancio dello sviluppo, e quindi sul delicato nodo del come mai al sud si facevano meno impieghi che al nord, Tremonti dice che questo schema non è fatto per travasare la raccolta del nord e mandarlo al sud, cosa che preoccupava in primis molte BCC proprio del nord. Questo schema è fatto per aumentare la patrimonializzazione delle banche del sud e consentirgli di fare più leva per impieghi al sud. E oltretutto, con queste obbligazioni agevolate, dovrebbe invogliare ulteriormente a fare più impiego al sud. Ma la domanda a quel punto diventa: visto che l'esperienza alle nostre spalle, il fallimento delle banche meridionali, derivava proprio dal fatto che quelle banche facevano un merito di credito un po' adulterato, cioè invece che dare i soldi veramente secondo criteri di merito, lo facevano secondo questioni clientelari politiche, e quindi poi sofferenze, incagli e fallimenti. Qual è il punto, dal suo punto di vista, Grospietro, della qualità degli impieghi a sud e del rischio maggiore? Se c'è un rischio maggiore, che deriva magari dalla legalità, dalle infrastrutture che non ci sono, non dipende dalla banca risolverlo. Come se ne esce, secondo lei? Questo schema è utile? Ma bisogna separare due aspetti. Certamente, come lei dice, se ci sono delle condizioni esterne di sfavore, vanno risolte, non le può risolvere la banca. Questo è un problema che spetta lo Stato, la gestione del territorio, il controllo del territorio. Però i banchi meridionali sono falliti perché hanno tralignato. La loro storia non è sempre stata negativa. Quindi qui si sposta l'attenzione sul concetto del capitale umano. Allora, il riferimento al Crédit Agricole deve essere seguito fino in fondo, cioè il Crédit Agricole è nato dal basso e non dall'alto, ed è nato facendo tesoro delle competenze locali e territoriali delle banche. Queste competenze oggi ci sono, ma probabilmente non sono sufficientemente sviluppate in funzione dei bisogni del territorio. Quindi io credo che nella costruzione del progetto che il Parlamento dovrà affinare è essenziale che si ponga attenzione al modo con il quale si costruisce il capitale umano, perché è lì che si stabilisce poi la qualità del credito che viene erogato. Vildacci, a parte un primo giudizio da parte delle BCC, che sono l'interlocutore appunto obbligato, l'abbiamo sentito, un modello Crédit Agricole significa partire da voi, invitarvi a fare rete. Crédit Agricole, lo ricordo per chi non lo sa, nasce dalle casse rurali transalpine, è un processo di aggregazione che non è mai stata fusione, si resta con identità separate, si resta ancorati al territorio, ciascuno con i propri clienti, si mettono diciamo a rete insieme sempre più servizi di back office, di corporate retail, di capitalizzazione, di funding, si mette tutto questo in una rete comune, ognuno però resta poi titolare del proprio marchio, della propria banca, del proprio territorio. Però detto questo, oltre a darci un primo giudizio da parte delle BCC, le chiedo anche di rispondere a un'osservazione che fa oggi Emanuele Bello, presidente di Confindustria di Sicilia, sul Sole 24 Ore, che dice: certo, sì, le BCC, però malgrado i loro 600 sportelli nel sud, insomma, lo sappiamo, sono un po' il soggetto debole dal punto di vista della patrimonializzazione. Una risposta anche a Lobello, oltre a un primo giudizio da parte delle BCC campane e più in generale delle BCC del sud? Allora, guardi, per quanto riguarda la patrimonializzazione, ciò non mi sembra del tutto corretta. Abbiamo banche molto patrimonializzate e che possono rispondere a questa nuova esigenza che pone il governo. Per quanto riguarda evidentemente la diffusione, scontiamo un gap rispetto al nord per fatti storici, la cooperazione è meno presente nel meridione d'Italia. Ciò posto sul piano della premessa, ritengo che questa nuova iniziativa possa essere, come già affermato da esponenti autorevoli della nostra organizzazione nazionale, possa essere anche un momento di sviluppo della cooperazione che si rivela ancora oggi un modello economico del tutto attuale, e su questo noi intendiamo come Campani offrire la nostra, diciamo, il nostro servizio, perché vediamo in questa nuova iniziativa governativa un'occasione di sviluppo anche del credito cooperativo nel meridione d'Italia. Ovviamente, detto questo, poi vanno verificati i contorni, le modalità. Per quanto riguarda il modello del Crédit Agricole, diciamo che il credito cooperativo italiano ha una conformazione diversa, lei lo conosce molto bene, di recente è stato anche al convegno della Federazione Lombarda e l'ho ascoltato con molta attenzione, però ritengo che sia un modello del tutto efficiente dove le autonomie esaltano la territorialità. E questo può essere l'ulteriore elemento di diversificazione e di attualità del nostro modello rispetto anche ad altri attori che operano nell'intermediazione finanziaria e creditizia nel meridione d'Italia. Trigilia, veniamo a un'altra questione che ha il suo peso, perché poi Tremonti è un nordista, come sappiamo, è accomunato più alla Lega addirittura che al PDL. Molti, quando questa idea, che è un'idea che va avanti da alcuni anni e non aveva mai trovato traduzione in uno schema concreto, ma quando la sentivano a leggere dicevano: ma questa è un'iniziativa di poco più che colore, figurati se Tremonti mai davvero metterà a mano a una cosa di questo genere. Perché? Perché esiste il rischio, alla luce proprio della ragione che ricordava Grospietro, il tralignare delle BIN meridionali, esisteva il rischio, ed esiste il rischio agli occhi di molti italiani, di molti anche intermediari finanziari importanti, di molti dirigenti delle grandi banche SPA private che sono nate attraverso il grande consolidamento bancario alle nostre recenti spalle, il rischio che diventi una roba in cui ci sia troppa politica di mezzo e quindi non un merito di credito valutato secondo questioni di efficienza come fa una banca privata. Dal suo punto di vista, Trigilia, questo rischio in questo schema, sia pure iniziale, che deve passare l'esame del Parlamento, è sufficientemente messo in sicurezza oppure il rischio c'è davvero ancora? Guardi, quando si parla di cose meridionali, purtroppo questo rischio è sempre presente, quindi bisogna stare molto attenti, bisognerà valutare per esempio il ruolo delle regioni nel comitato promotore, bisognerà che i confini tra economia e politica restino netti, altrimenti ricadiamo in vecchie esperienze che venivano prima ricordate anche da Grospietro. Ma io, quindi, da questo punto di vista, diciamo, un antidoto però importante, ritorno all'argomento sollevato da Grospietro, è proprio costituito dalle capacità organizzative e dal capitale umano di queste antenne decentrate, di queste banche locali radicate nel territorio che dovrebbero essere il braccio operativo di questo strumento. Secondo me questa impotenza è una buona idea, è un modo anche di cercare di aggirare, di oltrepassare i limiti di quella politica di incentivazione che per anni è stata fatta nel Mezzogiorno con esiti molto deludenti. C'è però un problema di dettagli, il diavolo è nei dettagli come sempre, e cerco di spiegarmi. La critica che viene normalmente fatta ai grandi istituti di credito che operano nel Mezzogiorno è che questi istituti a livello locale operano secondo una logica basata su criteri burocratici, su standard nazionali e internazionali, quindi gli operatori, i direttori di queste banche, i rappresentanti di queste banche sul territorio tengono poco conto delle conoscenze specifiche dei soggetti, delle qualità, della fiducia che questi soggetti possono ispirare. In sostanza si dice operano secondo criteri burocratici, questi criteri burocratici finiscono per penalizzare le imprese meridionali, che per esempio sono imprese che hanno dei più bassi livelli di patrimonializzazione, quindi dei coefficienti che rispetto alle formule che usano le grandi banche li penalizzano, o anche operano in contesti più rischiosi, eccetera. E quindi si dice delle banche radicate nel territorio possono in qualche modo aggirare, superare questi ostacoli. Perché? Perché hanno migliori conoscenze dei soggetti, quindi possono operare secondo criteri meno burocratici, possono superare quelli che gli economisti chiamano meglio asimmetrie informative, e possono anche sfruttare dei legami fiduciari, cioè possono capire quanto un soggetto che magari non ha quelle garanzie standard che potrebbero essere richieste da altre banche, però merita fiducia e quindi ha un merito di credito che può essere riconosciuto. C'è però un punto in questo discorso che è importante, cioè se noi non vogliamo cadere dalla padella alla brace e quindi ritornare anche poi a quei rischi di commistione con la politica a cui lei alludeva all'inizio, è importante la professionalità di questi operatori, perché il legame fiduciario e basta rischia naturalmente di produrre, di provocare un'inflazione fiduciaria, cioè noi rischiamo poi di dare credito sulla base di una fiducia che magari non è ben meritata e quindi cadiamo dalla padella alla brace e ricadiamo in esperienze precedenti. La interrompo, poi torno a dare la parola, perché volevo dare conto che naturalmente, come immaginavo, oltre a un ascoltatore al quale devo naturalmente un ringraziamento, perché mi fa notare che le tre BIN non erano quelle del Sud, vero, usavo la formula di banca di interesse nazionale associata impropriamente a tutto il sistema delle banche pubbliche. Detto questo, invece, diciamo una ventina di sms sono sul punto che mi aspettavo, cioè sono di protesta ironica e sardonica, con argomenti del tipo: ma come il Sud, con tutto il debito pubblico che gli abbiamo dato, adesso gli dobbiamo anche dare una banca con tutti i soldi eccetera, adesso gli diamo i soldi nostri per fare una banca. Ecco, intendevo soprattutto che fosse chiaro questo: in questo schema ci sono in tutto 5 milioni di euro di capitale pubblico, quindi lo schema è perché sia lo Stato a essere solo promotore di un'iniziativa che si fa con soldi che sono già del Sud, banche private, imprenditori del Sud, e c'è solo un meccanismo di garanzia pubblica. Questo a me sembra interessante innanzitutto per rispondere a questo genere di preoccupazioni che, come immaginavo, soprattutto nel Nord, sono diffusissime e sono associate all'idea di un'iniziativa pubblica clientelare. E siccome la sfida di questo istituto è proprio quello di evitare questa vostra preoccupazione, ci tenevo a dire che voi ve ne convinciate o no, perché poi bisogna vedere se davvero questa cosa si fa secondo quello che c'è scritto in questo schema, se il Parlamento la tiene così e se poi concretamente davvero saprà evitare il rischio che tanto vi preoccupa. Iniziamo con alcuni ascoltatori per vedere come la pensano su questo schema di banca per il Mezzogiorno, poi torniamo ai nostri ospiti. Cominciamo con Aurelio da Milano. Buongiorno Aurelio, ci dica. Sì, buongiorno. La mia preoccupazione è che questa sortita è un'altra privatizzazione a incasso zero da parte dello Stato, la privatizzazione delle Poste Italiane. Perché Tremonti ha detto che userà gli uffici postali, gli sportelli postali per fare questa nuova banca, sì. Ma al momento che lo Stato poi si tira fuori, che fine faranno questi sportelli alle poste? Le do una risposta precisa, Aurelio, perché questa è una domanda che così... No, non c'è nessuna privatizzazione delle poste, nel senso che le poste sono chiamate a partecipare anch'esse al comitato promotore, perché dichiara il ministro che sul territorio ad agire come rete di questa banca pubblica, che è una banca di secondo livello, cioè non opera direttamente sul territorio, opera come emissione di garanzie, ma ad agire come rete sul territorio sono le BCC o le altre banche popolari che ne faranno parte, e poi le 4.000 filiali delle Poste nel sud. Le Poste restano a tutti gli effetti pubbliche, non vengono minimamente interessate da uno smobilizzo della partecipazione pubblica. La differenza è che mettono a disposizione parte della propria ingente raccolta del risparmio postale a fini di sostegno al sviluppo, cioè a fini di finanziamento degli impieghi alle imprese, cosa che le Poste attualmente non fanno, non possono fare, perché le Poste non sono titolari di una licenza bancaria a tutti gli effetti. E questa cosa, caso caro Aurelio, non solo non è una privatizzazione che piace ai banchieri, io tra l'altro sono favorevole alle privatizzazioni, ma non è una privatizzazione, ma non piace ai banchieri. Le grandi banche private da anni lottano con tutte le proprie armi per impedire che Poste, con la sua ricca raccolta, diventi un concorrente alle banche private a tutti gli effetti. Le posso porre un altro quesito? Uno a testa e devo passare a un altro ascoltatore. Quindi, però sappia una cosa, l'ABI, le grandi banche, vedono questo coinvolgimento di Poste come una cosa che non gli piace per niente, perché temono l'estensione della concorrenza e temono chi ha molta raccolta, che loro dicono ha la garanzia pubblica sulla testa, che loro non hanno, quindi è un argomento serio anche, però temono che questa parte di raccolta venga impiegata a condizioni più favorevoli di quelle che sono in grado di garantire le banche private. Quindi questo delicato punto di mettere Poste al servizio della crescita del paese, secondo me è una cosa positiva, e ne verrà anche del bene, perché ci aiuterà a capire meglio la separazione che bisogna introdurre sempre più in Poste tra i sussidi che vengono pubblici, che vengono per la sua missione di servizio universale, cioè quella ancora residua di monopolista postale, rispetto alle attività invece bancarie e finanziarie che vanno esercitate nel pieno rispetto delle regole di concorrenza europea. Le banche private protesteranno per questo, è giusto che protestino, e Poste dovrà quindi rispondere in maniera sempre più inequivocabile e trasparente alla separazione delle tue attività. Ci abbiamo da guadagnare anche da questo, secondo me. Luigi da Firenze, prego Luigi. Sì, buongiorno a lei, suoi ospiti, bella trasmissione. Io sono a Firenze, però praticamente sono calabrese. La prima domanda che faccio è questa: non era meglio, prima di fare la banca del Mezzogiorno, fare delle riforme strutturali per quanto riguarda il movimento che c'è in Calabria, per quanto riguarda le aziende, la situazione della pubblica amministrazione, eccetera, e poi fare la banca del Mezzogiorno? Luigi, ma se facessimo invece entrambe le cose, perché temo che se facciamo una cosa alla volta per il sud non ne usciamo proprio. Io la ringrazio Luigi, sono un po' rapido, diamo un po' più di ritmo a questa nostra trasmissione, perché ci abbiamo anche il direttore del Mattino che è collegato con noi, può restare poco, quindi faccio parlare subito lui perché c'ha da fare. E Virman Cusenza, direttore del Mattino, quindi grande quotidiano, il maggior quotidiano del sud, si è molto impegnato in questi mesi, in questi anni, perché l'attenzione nazionale tornasse verso non solo una politica nazionale con priorità data al sud, ma anche con nuovi strumenti di intervento, e chiediamogli il giudizio. Direttore, che ne pensa di questo schema varato ieri dal governo? Buongiorno a voi. Penso che sia uno schema assolutamente possibile di lavoro, e che naturalmente, come tutti gli schemi, potrà avere dei perfezionamenti anche in Parlamento, si potranno aggiustare qualche punto qui e là, però diciamo che l'impostazione effettivamente può funzionare. In che senso? Innanzitutto per il fatto che lo Stato sarà presente, soprattutto, come dire, per il vagito iniziale dell'iniziativa, che è un vagito che durerà 5 anni, insomma un po' lungo, però effettivamente penso indispensabile per poter far mettere radice al progetto. Dopodiché poi lascerà spazio ai privati. Questo secondo me è esattamente la declinazione del concetto che ieri Tremonti ha spiegato, cioè che non sarà un carrozzone. La preoccupazione di tutti noi, ovviamente, avendo visto esperimenti simili in passato, è che ci sia come dire una sorta di mangiatoia, una greppia pubblica alla quale attingere per tutti, non solo per il Mezzogiorno, e poi lasciando il solito nulla di fatto. Ecco, il fatto che lo Stato si ritiri progressivamente, insomma entro i 5 anni, lasciando ai privati lo spazio, penso che sia una delle garanzie. Aspetti, la interrompo, c'è un ascoltatore da Roma a cui poi faccio rispondere lei stesso. Prego Massimiliano da Roma, ci dica come la pensa lei. Sì, buongiorno dottor Zernino, complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo porre l'accento su una questione rispetto anche alle perplessità che alcuni diciamo così, ascoltatori del nord le hanno espresse attraverso gli sms. Sono più che perplessità, le dirò che qui arrivano messaggi del tipo la mafia già si frega le mani, ma insomma bisogna saperlo che c'è questa reattività molto forte su questi temi. Prego. Io gli risponderei in questa maniera, starei attento a un'altra questione, che attualmente la maggior parte della raccolta fatta al sud, quindi facendo centro diciamo l'insieme dei prodotti finanziari venduti dalle banche che servono per finanziare poi gli impieghi, finanziano gli impieghi delle imprese del nord, siamo quasi a un 40%. Questo vorrà dire che se questo progetto avrà il successo che io spero abbia, buona parte di quella raccolta che oggi finanzia le imprese del nord verrà distolta da quell'attività e verrà a finanziare le imprese del sud. Quindi questa è la reale preoccupazione che io, da, diciamo così, da nordista sottolineerei. Quindi più un problema di mercato che non di appropriazione di soluzioni pubbliche. Eccoci, quindi per essere chiari, cari amici del nord, vi si fa notare che fino a questo momento è stata la raccolta del sud a riversarvi. Naturalmente la difesa del nord, Massimiliano, è che questo non avviene a caso, avviene perché a nord le imprese sono più produttive ed è ovvio che le banche private preferiscono mettere i soldi dove si rischia di meno e si guadagna di più, cioè con le imprese del nord che sono più produttive, perché la questione di fare più impieghi al sud si risolve con la più produttività. E qui torniamo al tema che abbiamo inizialmente però posto a Grosspietro. Ancora una domanda per Cusenza che poi ci deve lasciare come direttore del Mattino. Nella sua esperienza come osservatore insomma di una realtà come quella campana e meridionale in generale, si aspetta che la politica locale capisca, per così dire, che è meglio stare prudentemente nella funzione di osservatrice o poco più, o teme invece che di nuovo fenomeni come quelli che poi hanno portato a crisi pesanti come quella del Banco di Napoli si possano riproporre? Perché quando uno vede le cronache della politica Napoli in Campania, non so se si possa davvero convincere seriamente che la politica ha imparato la lezione e sa stare con le manine bene sul tavolo in vista invece che nei cassetti. Lei che dice? Ma allora, su questo scetticismo sono d'accordo. Naturalmente il discorso, come dire, è complesso. Volevo soltanto dire una battuta all'ascoltatore di prima che ha detto una cosa intelligente, ma anche rispondere alle tante critiche che vengono da nord. Innanzitutto, se vogliamo parlare di pericolo, infiltrazioni camorristiche, mafiose, eccetera, dovremmo dire che ce ne sono di più forse al nord che al sud. In che senso? Che è evidente che laddove c'è un investimento produttivo c'è la possibilità di un'infiltrazione, tant'è vero che noi abbiamo assistito in questi anni a un proliferare di iniziative appunto di criminalità organizzata, dal racket a scendere a riciclaggio esattamente appunto nelle regioni del nord, proprio per questa ragione. Quindi non è un problema geografico, primo punto. Secondo punto, quanto al fatto che la politica possa ricadere nel vizietto antico, non c'è dubbio che ci sarà questo rischio, però c'è da dire che il meccanismo congegnato dal governo in questo caso non mi pare più esposto di prima, anzi direi che è molto meno esposto di prima, perché lascia spazio innanzitutto al sistema creditizio locale cercando di fare in modo che metta radici. Dall'altro c'è il fatto che appunto si incentiva l'investimento di impresa, allora con i tassi più bassi appunto dei prestiti. Allora a quel punto innanzitutto è possibile per un'impresa del nord fare investimenti al sud, primo punto. Secondo punto, per l'impresa stessa del sud, ed è qui la parte che andrà approfondita, bisognerà creare dei criteri effettivamente di, come possiamo dire, meritocrazia nel assegnare gli investimenti e quei finanziamenti. Per quale ragione? Lo ha segnalato Trigili anche il nostro giornale, ma anche lo stesso Giannino, che insomma abbiamo il piacere di far collaborare. C'è un problema, è che effettivamente, come dire, queste banche parlino troppo dialetto e poco inglese, e cioè il fatto che non abbiano una visione, come dire, più ampia degli investimenti in senso europeo o internazionale, e che quindi diano in poche parole il credito soltanto a iniziative localistiche o locali che poi alla fine non sono quelle che fanno decollare lo sviluppo nell'area. Allora a quel punto è chiaro che bisognerà stare molto attenti nel management, ma anche nella selezione di questa catena del credito, e fare in modo che appunto chi avrà il compito di selezionare, di assegnare i prestiti, di fatto lo faccia in modo intelligente, esattamente come lo farebbe a Busto Arsizio piuttosto che a Bolzano. Grazie, grazie al direttore del Mattino. Grosspietro, su questa questione, che è quella poi inizialmente affrontata anche con lei, cioè del merito di credito e delle condizioni di maggior produttività, il rischio, in altre parole, è che si aumentino gli impieghi senza nel frattempo avere risolto le esternalità negative che condizionano la produttività più bassa, cioè i costi di maggiori infrastrutture, del sistema dei trasporti che funziona meno nel sud, da una logistica ancora più inefficiente, di una logistica generalmente troppo inefficiente in tutto il nostro paese. Da questo punto di vista, l'azione concorrente che lo Stato deve mettere in atto nel sud per alzare la produttività, al di là della banca, secondo lei, se dovesse indicarla in un paio di priorità, in che cosa si sintetizzerebbe? Beh, la primissima è il controllo del territorio. La criminalità organizzata è una tassa tremenda che pesa su tutte le imprese, anche sulle imprese del nord che vanno a operare al sud, e in certi casi l'effetto che ottiene è che le imprese buone si ritirano e lasciano lo spazio alle imprese infiltrate. Questo per esempio è gravissimo, è successo su alcuni cantieri grandi opere infrastrutturali nel sud. E su questo ovviamente la banca per il mezzogiorno non può fare nulla, è lo Stato che deve intervenire. Però certamente un'attività creditizia più professionale che aiuti quegli imprenditori meridionali, e sono tanti, che hanno iniziativa, che si affacciano sui mercati internazionali, che innovano i prodotti in tutte le filiere, da quella agricolturale fino anche a filiere tecnologicamente avanzate. Beh, questa può fare molto, perché uno dei terreni di cultura che ha la criminalità organizzata nel sud è proprio dato dalla gioventù che non vede prospettive. Quindi se le prospettive, se le alternative vengono fornite, si toglie l'acqua dalla risaia in cui nuota il pesce della criminalità organizzata. Io credo che, come diceva Trigilia, il diavolo sta sempre nei dettagli. Cioè, l'idea è buona, ma è certo essenziale vedere come viene sviluppata. Eccoci tornati in studio con Oscar Giannino. Rispondo a un ascoltatore che ci manda un SMS di quelli che mi fanno profondamente riflettere. Stiamo parlando di banca per mezzogiorno. Io, rispondendo alle preoccupazioni di molti di voi, ho detto: guardate che ci sono solo 5 milioni di capitale pubblico all'inizio, quindi minoranza fin dall'inizio del comitato promotore. Impegno che lo Stato comunque esca integralmente dal capitale entro 5 anni, restituendo tutta la sua quota pubblica ai soci privati, bancari e imprese che sono nel comitato promotore, che quindi faranno la banca. Uno di voi, che rispetto profondamente, mi manda il seguente SMS: no, quali 5 milioni? Quel 7,5 punti di aliquota in meno pagata sulle obbligazioni attraverso cui si finanzia la banca per mezzogiorno sono soldi di noi tutti. Perché mi fanno molto riflettere questi vostri messaggi? Perché, e lo dico con rispetto assoluto, non manco mai di rispetto, non sono, almeno ci provo a fare la persona equilibrata che ragiona, mi colpisce molto. Perché un conto è ragionare del denaro pubblico già raccolto con le imposte, con i contributi, e che lo Stato devolve a questa o quella finalità, come sono quei 5 milioni. Ma vivere in un paese nel quale tanto siamo impregnati di statalismo, tanto abbiamo abbracciato fin dalla nascita, e lo faremo fino alla tomba, il modello che lo Stato pervade come intermediario del reddito nazionale, della produzione, una quota elevatissima, più del 50%, e tanto ne siamo impregnati che ragioniamo che è già denaro pubblico, persino punti di aliquota in meno, quindi che non escono dalle nostre tasche, e ragioniamo che quelli sono comunque denari pubblici ed è quindi un'agevolazione impropria, perché significa sottrarre quelle risorse ad altro. Questo mi colpisce molto, devo dirvi la verità, perché arrivare a protestare perché si pagano meno tasse, perché questo significa minore intermediazione pubblica, vuol dire avere nella testa, secondo me, e lo dico, ripeto, con profondo rispetto, punto di vista legittimo, io so di essere in minoranza rispetto alla maggioranza degli italiani che magari ragionano invece come questo ascoltatore, ma ragionare sul fatto che non pagare le tasse significa levare denari pubblici che magari potrebbero andare ad altre finalità, dico che forse si realizza meglio con una tassazione del 99%, tutto è pubblico a quel punto, e secondo voi realizzeremo il paradiso in terra o l'inferno? Secondo me realizzeremo più l'inferno che il paradiso in terra. Quindi per me punti di aliquota in meno, gli sgravi, non sono meno denaro pubblico da destinare a chissà quali altre priorità, sono semplicemente una restituzione dal basso a chissà far meglio dal basso che in alto, una migliore possibilità di allocarle quelle risorse. Gli sgravi fiscali hanno questo di bello, secondo me. Sono in minoranza, lo so. Detto questo, però, bisogna distinguere tra le risorse che sono amministrate dallo Stato, che sono già prese dalle nostre tasche, da quelle che semplicemente è meglio non dargli, secondo me. Allora, professor Trigilia, un altro aspetto che fino a questo momento non abbiamo analizzato. È molto difficile immaginare la storia alla luce dell'evoluzione del sistema bancario italiano, come però queste banche che hanno reti proprie, piccole, territoriali, le BCC, le popolari del sud non sono molto forti, possano davvero fare rete insieme. Alcuni dei nostri ascoltatori dicono: saranno le Poste a erogare loro gli impieghi alle imprese? No, le Poste questo non lo possono e non lo devono fare, non hanno il capitale umano per farlo. Non lo sanno fare e non lo devono fare. Allora, da questo punto di vista è un grande cantiere, perché una cosa di questo genere in Italia non c'è mai stata. Lei si aspetta che alla testa di questa banca privata ci vada un manager, un banchiere? Chi ci deve andare? Chi è meglio che si metta a fare una cosa senza precedenti di questo tipo? Un professionista del sistema bancario che ha voglia di innovare e di uscire anche dagli schemi tradizionali. Questa sperimentazione può essere importante anche per altre aree del paese, penso ai distretti industriali, magari un'altra volta avremo occasione di parlarne, sono aree dove c'è molto risparmio privato che difficilmente si riesce a canalizzare per esempio sullo sviluppo del territorio. Ma torniamo al sud, io credo che appunto il problema della professionalità degli operatori sia importante, non limitiamoci a discutere della questione certo rilevante della capacità di mobilitare le risorse finanziarie necessarie per questo progetto. Questo è certamente un problema. I bond con una fiscalizzazione, un'aliquota fiscale più bassa possono essere uno strumento, ma è importante la dimensione del funzionamento organizzativo, il modo in cui si costruiranno queste reti, la professionalità degli operatori. È importante il radicamento territoriale, ma ci vuole professionalità, perché oggi poi queste imprese devono muoversi in un mercato che è sempre più globale e quindi il piccolo medio imprenditore deve essere accompagnato anche con servizi sofisticati. Questo potrebbe essere un limite se non crescono delle antenne decentrate costituite da queste reti di banche cooperative. Vildacci, dal vostro punto di vista, per l'esperienza che avete, che cos'è, se dovesse dirlo in una formula a chi non conosce molto bene le peculiarità, voglio dire, del sistema banca di credito cooperativo, lo associa a una specie di non banca, ma perché? Ma è così, lo vedo dai nostri ascoltatori, sa, non sono tutti versati nella specializzazione di cos'è una banca SPA, una banca popolare, una banca di credito cooperativo, ma se dovesse fare capire agli ascoltatori che cos'è che ha impedito, ha differenziato l'andamento delle vostre banche rispetto a quello delle banche del sud, che sono andate male perché troppa politica, troppo merito di credito mal dato, e che molti dei nostri ascoltatori a nord continuano a dire: ma ancora non avete capito, ancora perdete tempo, una nuova banca per il sud. Dovesse dire a loro che cos'è che vi ha contraddistinto, per cui invece vi tenete in piedi con buoni livelli di patrimonializzazione, che cos'è? Guardi, secondo me quello che ci caratterizza rispetto alle altre banche è avere la testa nel territorio. Poco fa si parlava di banche che operano nel territorio, noi invece abbiamo la testa, capiamo le esigenze del territorio e cerchiamo di dare delle risposte, che sono delle risposte non solo di aspetti esclusivamente creditizi. E proprio nel nostro DNA, l'articolo 2 del nostro statuto ci caratterizza perché noi abbiamo anche un obbligo di far evolvere le condizioni economiche e sociali dei nostri soci, e questo ci consente di avere quel valore aggiunto che altri non hanno. La mattina quando noi ci alziamo e camminiamo per le strade dei nostri piccoli paesi dobbiamo guardare in faccia la gente, e questo ovviamente ci impegna oltremodo a dare delle risposte concrete. Guardi, molte volte, lo ascoltavo poco fa, si parla per luoghi comuni, quando si parla di interventi fatti dallo Stato nel Meridione, per chi come me ha operato nel territorio posso assicurarle che non tutti i soldi sono andati a imprese del sud, anzi tutt'altro. Allora questa nuova scommessa, questo nuovo motore che il governo vuole mettere per far risorgere questo meridione, deve fare attenzione che questi soldi vengano impegnati per fare crescere quelle migliaia di micro imprese, perché quando si parla di piccole e medie imprese noi dobbiamo fare anche attenzione che nel nostro territorio meridionale, ma in particolare quello campano che conosco meglio, le micro imprese sono tantissime, sono piccoli operatori con fino a 5, 6, 7 addetti che operano tutti i giorni con una difficoltà enorme. Ieri sera abbiamo ascoltato una relazione da parte di esponenti di Banca d'Italia che parlava dell'economia regionale, ebbene dobbiamo dare atto che i nostri operatori combattono tutti i giorni con delle inefficienze, quello dei pagamenti per esempio della pubblica amministrazione, che ormai sono arrivati a livelli insopportabili, perché parliamo quasi di 2 anni di ritardo. Devo dire, allora, devo confermare che per esempio nella sanità calabrese siamo a praticamente 900 giorni addirittura per i pagamenti. Che sia una moria di imprese. Aggiungo, noi come Campani recentemente siamo proprio impegnati a dare delle risposte sul territorio, sia in termini di sviluppo di banche di credito cooperativo. Sappiamo la difficoltà, sappiamo che abbiamo grosse scommesse, di recente abbiamo scommesso sul comune capoluogo di regione, Napoli, con una piccola BCC che è sorta da pochi mesi. Lo intendiamo fare con 2 direttrici molto importanti, quello di impegnare le nostre banche ad aiutare quelle nascenti o a sviluppare nuovi sportelli, ma anche a investire nella cultura. Noi fra pochi minuti saremo proprio nell'Università di Salerno, perché abbiamo avviato delle iniziative per coinvolgere gli studenti a questa nostra realtà che è poco conosciuta. Bene, grazie Vildacci della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo, grazie a Gian Maria Grospietro della LUIS, grazie a Carlo Trigilia e al direttore del Mattino che è stato anche con noi. Non so quante delle vostre preoccupazioni, cari ascoltatori, siano state soddisfatte, ma abbiamo tentato di entrare un pochino nel dettaglio. Una cosa è sicura: se non si trova il modo di alzare la produttività del Sud come priorità nazionale, noi il gap di crescita totale del paese nostro rispetto ai concorrenti non lo recuperiamo, e questo in termini di reddito pro capite è la vera sfida dei prossimi anni. Altrimenti, scusate se lo dico chiaramente, è meglio la secessione. Non so se è chiaro, perché crescere tutti meno perché c'è un problema irrisolto di bassa produttività, senza capire che lì bisogna concentrarsi, porterà molti italiani, secondo me, anche nel prossimo futuro a ragionare diversamente. Per questo io dico che vale la pena di trovare il modo, alla luce dell'esperienza della troppa politica del Sud, di capire il Sud come può dare una mano da solo a se stesso, ma meglio che in passato. Grazie in regia a Paolo Corleone, grazie a Alessandro Marcoturni in redazione, e prima di dare la linea al giornale radio, l'appuntamento è, come sempre, io per di sbaglio, a lunedì prossimo.